24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 30 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 11 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori, eccoci. E eccoci con temi importanti oggi, sia sì, sul fronte della vita familiare, che è quello che sì, affronteremo tra poco, e sia su quello dei rapporti internazionali. Sì, e anche dei rapporti politici interni, perché la vicenda Regeni e delle due fregate in vendita all'Egitto di Al-Sisi stanno agitando la maggioranza, è uno degli elementi che agita la maggioranza. Tu, Maria, volevi iniziare con un po' di giornali esteri come al no, solito? No, io questa mattina volevo proprio cominciare con un ricordo, e poi sentiremo il nostro primo ospite, il responsabile nazionale del Partito Democratico, proprio su questo tema. Volevo cominciare con un ricordo, Simone, perché la sera drammatica in cui si seppe che Giulio Regeni era stato prima scomparso e poi violentemente trucidato, una notizia che sconvolse tutti, mi pare di ricordare, ma forse poi Miceli ce lo potrà confermare, potrei sbagliarmi, che proprio quella sera fosse al Cairo una delegazione di nostri imprenditori guidata dall'allora ministro dello sviluppo economico Guidi. Ebbene, appena appresero, insomma, della notizia del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, quella delegazione ovviamente lasciò subito la cena ufficiale che si stava svolgendo a livello altissimo con altri imprenditori egiziani, perché i nostri imprenditori erano lì appunto per stabilire dei rapporti d'affari, e giustamente lasciarono la cena. Da lì cominciò tutto quello che sappiamo e che ancora è avvolto dal mistero. Ebbene, qualche giorno dopo, al Cairo si presentò una delegazione di un altro paese europeo, di cui non faccio il nome, guidata ad altissimo livello e piena di imprenditori di quel paese che erano al Cairo per soffiarci, io lo dico, altri non potrebbero dire, i nostri affari. E anche questo è un tema che dobbiamo tenere presente nel ricordare, come dire, tutte le giuste motivazioni che i genitori di Regeni e tutti coloro che in questi anni hanno chiesto verità e giustizia per Giulio oppongono. Però c'è anche questo aspetto, che c'è sempre qualcuno pronto ad approfittare di circostanze oscure, perché ancora noi non abbiamo capito perché quella professoressa di Cambridge mandò Giulio al Cairo. Non abbiamo mai capito che cosa ci fosse dietro Cambridge per quella vicenda. Non dobbiamo dimenticare che ci sono sempre altri paesi pronti ad approfittare delle difficoltà. Ma perché non lo diciamo difficoltà? Il nome di questo paese, Maria? Perché voglio esserne sicuro, ma il responsabile nazionale del PD forse se lo ricorda. Sì, che adesso abbiamo raggiunto. Ti confermo, tra l'altro, che il tuo ricordo era corretto. Quel giorno c'era una missione imprenditoriale con l'allora ministra Guidi, che immediatamente lasciò l'Egitto. Come capite, care ascoltatrici e cari ascoltatori, il tema di fondo qua è insomma come coniugare la necessità di mantenere i rapporti con un paese così importante come l'Egitto sotto varie prospettive da una parte, e dall'altra parte il fatto di avere relazioni con un paese che sistematicamente viola i diritti umani e che non ancora dato e fornito la verità sul caso di Giulio Regeni. Carmelo Miceli, buongiorno e benvenuto, è responsabile nazionale del PD per le politiche di sicurezza. Miceli, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, Miceli, prego. Intanto le vorrei proprio chiedere se anche a lei, se conferma quello che è un mio ricordo, però i ricordi poi possono anche essere, come dire, fumosi, no? Risulta anche a lei che qualche giorno dopo che i rapporti tra Italia e Egitto erano ovviamente stati interrotti dopo la scomparsa e la tragica uccisione di Giulio Regeni, un altro paese si presentò con una delegazione per trattare affari al Cairo. Se lo ricorda anche lei? Sì, lo ricordo, però credo insomma che il contesto storico sia leggermente mutato, il contesto odierno sia leggermente diverso, viviamo una fase storica nella quale, se posso, insomma, credo che mai come oggi sia necessaria un'interlocuzione con l'Egitto alla luce del mutamento del quadro geopolitico, soprattutto di quell'area. Credo insomma che la situazione di difficoltà anche che comincia a vivere anche Haftar in Libia ci obbliga ad una riflessione un po' più complessiva. Quindi credo che i paragoni storici insomma vadano anche calibrati rispetto agli accadimenti degli ultimi mesi, dell'ultimo mese in particolare. La vicenda, Miceli, scusi, me la faccio ricordare ancora una volta agli ascoltatori, è la cessione di due fregate militari all'Egitto. Sì. Qua già sì. Qualche ascoltatore ci scrive e dice: pazienza, perderemo una commessa, ma certi limiti non si superano. È l'opinione di un pezzo del suo partito, Miceli, in realtà. Mi sembra che lei sia dissonante rispetto a questi. Sì, in realtà sono dissonante perché non credo che sia la scelta più opportuna quella di pregiudicare un rapporto politico in forza di una ricerca di una verità che è assolutamente necessaria e doverosa. Credo peraltro che sia controproducente per la stessa ricerca della verità. Io paradossalmente ritengo che l'interruzione del dialogo, perché è chiaro che dietro una commessa del genere non c'è solo un affare commerciale. Sbaglia chi interpreta questa commessa squisitamente come la vendita di qualcosa. È una, dietro la fornitura di armamenti, perché di questo parliamo, c'è anche un reciproco affidamento di carattere politico e geopolitico che paradossalmente può essere solo d'aiuto alla ricerca della verità. Io credo che la vulgata secondo la quale in forza del pagamento di questa commessa si starebbe comprando il silenzio è assolutamente inaccettabile. Guardi, io ne parlavo ieri con il presidente della commissione Regeni, con il quale ho voluto un confronto con l'onorevole Palazzotto, al quale dicevo proprio che è corretto il fatto che loro abbiano voluto immediatamente immaginare di sentire il presidente del Consiglio su questa commessa, perché è chiaro ed è obiettivo il fatto che dietro il rapporto commerciale ci siano anche rapporti di carattere politico, ed evidentemente il presidente avrà ritenuto di dover parlare della vicenda Regeni, per la quale pretendiamo, mi associo al coro di chi pretende la verità, pretendiamo la verità e pretendiamo maggiore collaborazione dall'Egitto. C'è anche la vicenda Zaki, mi consente di dire, non c'è solo la questione Regeni, per la quale pretendiamo anche lì rispetto per i nostri connazionali, chiudere e interpretare, dare un'interpretazione a questo rapporto commerciale di carattere mancetta, così è stato definito da qualcuno, o acquisto del silenzio, è scorretto, è poco corretto. Io ritengo invece che per il momento storico, e torno sulla vicenda geopolitica, in questo momento non possiamo perdere un posizionamento in Egitto, e del resto mi lasci dire che quando il nostro ambasciatore lasciò l'Egitto non mi pare che quell'operazione produsse dei risultati maggiori rispetto alla ricerca della verità. Io credo che invece che a maggior ragione dobbiamo pretendere collaborazione in un quadro nel quale l'Italia non perde geopoliticamente il suo posizionamento, ma anzi lo recupera. Chiarissimo, Miceli. Maria, prego. Sì, volevo approfondire le ragioni geopolitiche, perché sono temi complessi e io capisco che non sia così facile parlarne e anche fare rivelazioni, però in sintesi l'Italia è molto interessata a questa area del Mediterraneo. Rischiamo di essere estromessi dalla Libia. Ci fa capire perché in questo momento è importante mantenere un rapporto con l'Egitto? Certo, se ci riesco, ecco. Sì. Credo intanto che vada tenuto presente il ruolo dell'Egitto. Parliamo di una delle nazioni centrali al paese, diciamo, dei paesi del Nord Africa, un'azione fortemente impegnata anche nella lotta al terrorismo. Ed è un paese che chiaramente risulta fondamentale nella ricostruzione di un equilibrio nel Mediterraneo, che ha anche nella lotta ad Al-Qaeda una chiave di lettura della ricostruzione dei rapporti, ed anche, mi lasci dire, un recupero delle posizioni perse dall'Italia nella Tripolitania e in Libia. L'Italia è, credo, un dato oggettivo, incontrovertibile, ha perduto quella sua posizione di supremazia, di paese principale, di riferimento all'interno della Tripolitania, a scapito di una iperattività della Turchia. Sì. Ed è evidente che in un momento storico nel quale Haftar comincia a perdere posizione anche in forza del venir meno di alleati, la nostra relazione con l'Egitto può essere il viatico per una ricollocazione dell'Italia tra i paesi che contano, in un'ottica assolutamente pacifista. Cioè, è chiaro che la nostra funzione è sempre storicamente orientata verso la pace e il rimantenimento di equilibri. Mi scusi Miceli, però Al-Sisi è un sostenitore di Haftar, del perdente. Sì, certo, ho capito. Non capisco in questo ragionamento mi manca un pezzo. Cioè, se noi avessi in questo modo cercassimo di trovare un rapporto con un grande sostenitore del vincente, ossia Sarraj, sarebbe un conto. Noi non dobbiamo cercare un sostenitore al vincente, noi questo lo abbiamo già, nel senso che non possiamo. Anzi, la ringrazio per questa osservazione. Sbaglia chi dice che attraverso la fornitura di questa commessa l'Italia sta per cambiare cavallo. Qualcuno così l'ha provato a interpretare. Non è così. Anzi, grazie per l'occasione. Cioè, non è un cambio di posizionamento geopolitico. Anzi, paradossalmente, io credo che l'Egitto, che chiaramente segue una politica di fornitura di armi variegate, che non ritiene di dover rimanere impiccato di un fornitore, eccetera, attraverso una fornitura e l'avvio e il consolidamento ancora di un rapporto con l'Italia, possa paradossalmente spostare quegli equilibri che possono consentire, all'organizzazione internazionale di portare a termine il compito affidato a Sarraj e quindi dare maggiore equilibrio alla Tripolitania. Io la penso al contrario. Io non vedo nell'investimento nel rapporto con l'Egitto. Miceli, intanto si metta vicino ad una finestra, perché sennò rischiamo di non sentirla. Sì, è una scarica continua. Le chiedo perdono. Maria, prego. Abbiamo ancora qualche minuto. Se si è sentito, dicevo. Sì, si è sentito. Senta, Miceli, a questo punto come se ne esce? Non vogliamo essere ingenui, però da un lato c'è una famiglia che chiede giustizia, e con loro tanti italiani che si sono stancati di vedere questi giovani, non solo italiani, ma in questo caso stiamo parlando in italiano, che vengono mandati allo sbaraglio, perché Giulio Regeni è stato mandato allo sbaraglio da quella docente dell'Università di Cambridge, sul cui ruolo non si è fatta ancora sufficiente chiarezza, e dobbiamo farlo. Mi farebbe piacere, no? come italiana, sapere come fu mandato Giulio Regeni allo sbaraglio lì. Detto ciò, Maria, diciamolo anche chiaramente, non è che è stato torturato e ucciso dalla docente di Cambridge, dai servizi di Al-Sisi, presumibilmente. Però quindi, è stato mandato lì senza evidentemente che ci fosse una sufficiente protezione nei suoi confronti. Dall'altro, è importante tutto quello che lei ci ha detto. Allora, siamo ingenui nel pensare che si possa tenere dentro tutto, vale a dire la verità per Giulio e la giusta giustizia per Giulio Regeni e la sua famiglia, e il fatto di non perdere un interlocutore prezioso in quest'area che per l'Italia è fondamentale? È ingenuo? Perché lei ha detto forse attraverso la vendita di queste fregate addirittura faremo un passo avanti verso la verità. Perché? No, allora io non vorrei risultare... Non vorrei semplificare, non vorrei che passasse, non sarebbe rispettoso nei confronti della famiglia provare a fare passare un messaggio, e paradossalmente saremmo dinanzi ad una occasione per, no. Però non sono ingenuo, cioè non è ingenuità, nel senso che le due cose vanno tenute rigorosamente insieme. Lei fa bene a puntare il dito anche contro chi Giulio lo mandò in Egitto, nel senso che è assolutamente doveroso fare chiarezza. E io che credo profondamente nelle istituzioni, ritengo che un ruolo fondamentale in questa fase lo possa assumere la commissione d'inchiesta. Io non credo che le cose non possano stare insieme, lo dico da appartenente alle istituzioni, credo che la ragion di Stato possa non essere ostacolo alla ricerca della verità. E credo che l'avvio dei lavori della Commissione possano essere il viatico, lo strumento ideale per divenire a questa verità. E credo che farebbe bene il Presidente del Consiglio a rispondere immediatamente all'appello della Commissione e a partecipare ai lavori, come riconosciuto dalla stessa Commissione, in modo assolutamente preliminare. Quindi partendo da quanto accaduto oggi. E credo e confido ancora nella possibilità di ricercare, di trovare la verità. Io non mi rassegno all'idea che la famiglia Regeni e con la famiglia Regeni l'Italia, perché poteva esserci il figlio di chiunque al posto del figlio di Giulio, possano avere chiarezza e giustizia. Grazie Carmelo Micelli, responsabile PD per le politiche di sicurezza. Buona giornata. Buona giornata. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, parleremo con Chiara Appendino e con altri ospiti, ci occuperemo della questione centri estivi, asili nido, entriamo più nel cuore, no, di quelli che sono i problemi delle famiglie al momento. Quanto costano questi centri estivi? Ci sono incrementi addirittura del 300% e asili nido rischiano di non riaprire a settembre, ragazzi. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ma sì, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, il paese che mandò questa missione ad altissimo livello, della quale parlava Maria Latella, era la Francia con presidente François Hollande, e andò direttamente Hollande. Andò lui. Grande delegazione di imprenditori. Dunque, tema aperto, così come c'è un tema aperto che riguarda tutte le famiglie italiane. Oggi il quotidiano La Repubblica ha l'apertura praticamente dedicata al fatto che ci saranno quasi 200.000 bambini senza asili nido. Ed è proprio lì che comincia la diseguaglianza, certo. Tra un bambino che va a un asilo nido e quindi socializza con gli altri e un bambino che per questione di costi non può andarci, si crea il primo gradino della diseguaglianza che poi proseguirà con le scuole, per cui i bambini che il pomeriggio non sono seguiti avranno un altro gap. Le diseguaglianze cominciano a 2-3 anni. E poi c'è anche la questione di quello che succede adesso, perché si riapre, si torna al lavoro per chi ce l'ha, naturalmente, per chi non è in cassa integrazione, e però come con dei centri estivi i cui costi aumentano in maniera esponenziale, anche perché banalmente devono osservare delle misure di sicurezza molto maggiori. Buongiorno Chiara Appendino, sindaco di Torino del Movimento 5 Stelle, bentornata, eccoci. Buongiorno. Grazie, sindaco. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, parlavo delle diseguaglianze che si creano proprio nella primissima infanzia. Abbiamo dei dati: il reddito netto delle famiglie che usufruiscono del nido risulta mediamente più alto di quelle delle famiglie con figli di età compresa fra i 0 e 2 anni che non frequentano il nido. Allora, il punto è il seguente: lei è sindaco di Torino. Per quest'estate, per le famiglie che hanno bisogno di lasciare i figli in una condizione di sicurezza perché devono tornare al lavoro tutti e due, perché non è detto che le donne debbano rinunciare al lavoro perché non c'è nessun sostegno alla famiglia in Italia. Ecco, per queste famiglie il Comune di Torino che cosa sta prevedendo, le chiedo, e poi se ha contezza di quello che altri suoi colleghi sindaci in altre città vogliono fare. Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Mi permetto di fare una breve considerazione iniziale e poi ovviamente rispondo sul tema specifico. Cioè, le donne hanno diritto a avere un sostegno rispetto alla libera scelta lavorare. Quindi questo significa che sulle donne non può essere caricato tutto il sistema di welfare, che è un tema che durante il lockdown è stato veramente molto ai margini della discussione, ma sulle donne si è caricato spesso il welfare dei bimbi e anche magari dei propri genitori anziani, quindi sono schiacciate spesso tra, come dire, due esigenze, dei più piccoli e dei più grandi, che poi sono fasce fragili per motivi diversi. Cosa stiamo facendo noi a Torino? A Torino noi stiamo lavorando, in realtà in questi giorni abbiamo aperto i primi cortili nostri, come dire, dei nidi che possono essere nuovamente frequentati, ma in realtà la novità è che con un lavoro enorme, perché voi giustamente ricordavate, tra sindaci ci confrontiamo spesso, questi protocolli, queste norme sono magari facili da scrivere ma poi da applicare per chi lavora in trincea, in prima linea, sono spesso molto complesse, e quindi stiamo raccogliendo adesso le iscrizioni per bimbi estate, quindi per i bambini tra i 3 e i 6 anni che partono il 6 luglio e proseguiranno per 8 settimane fino ad agosto, quindi arriviamo anche ad agosto quest'anno, e per estate ragazzi che vanno dai 6 agli 11 anni, questi invece partiranno dal 29 giugno al 7 agosto. È un modo diverso. Sindaca, quanto costano? Quanto costano? Faccio un esempio. Allora, sì, noi abbiamo dovuto passare da rivedere le presenze e il rapporto tra educatore e bambini, quindi abbiamo, certo, un educatore ogni 6 bambini per quanto riguarda i 3-6, un educatore ovviamente un po' più ampio per quanto riguarda invece sostanzialmente le 7 ragazze. A noi è aumentato il costo del 40%. Quello che noi abbiamo fatto però, grazie allo sforzo, devo dire, dell'assessora Di Martino, che si occupa del tema dei servizi educativi, è assorbirlo noi, e quindi sostanzialmente non ci sarà un aumento dei costi. Ma comunque io ci tengo a dire che sia per gli asili, che è un altro tema che si vedrà poi con l'inizio della scuola a settembre, sia per quanto riguarda questi servizi, comunque continua a esserci un aumento dei costi esponenziali per chi deve organizzare, che ha messo, sì, ad esempio, non parliamo tanto di noi che siamo pubblici, che in qualche modo cerchiamo di cavarcela, ma ad esempio, sì, gli oratori, i soggetti privati sono in difficoltà nel garantire i servizi. Quindi il tema dell'area triage, il tema della sanificazione, sono tutti costi aggiuntivi che si fa oggettivamente fatica a tenere. Adesso noi abbiamo aperto le iscrizioni, vedremo cosa succederà nelle prossime, ecco, settimane. Vorrei proprio chiederle, vorrei chiederle proprio dei costi, perché leggiamo nell'articolo già citato da Simone sulla Repubblica che ci sono dei centri che appunto raccolgono 8.000 strutture private e denunciano è caduta la linea. È caduta la linea con la sindaca Appendino? Sì. Adesso la recuperiamo. Sì. Stavo dicendo che appunto ci sono queste educatrici che hanno ricevuto soltanto 500 euro che sono arrivate questa settimana e sono senza stipendio da marzo, da un lato. Quindi le educatrici non hanno ricevuto sostentamento. Mi risulta che associazioni varie hanno dovuto licenziarle alcune, sì, educatrici degli asili, da un lato. Dall'altro ci sono le famiglie che non sono in grado di pagare le rette. Cioè, è un circolo vizioso pericolosissimo. Quello è, tra l'altro, il famoso criterio, lo abbiamo ricordato anche ieri, lo facciamo volentieri anche oggi, il famoso criterio del reddito, no? Più sale il reddito, naturalmente più si paga la retta dell'asilo. In realtà la retta più alta generalmente parte da redditi relativamente bassi, e questo va chiarito. Con un ISEE di 30.000, 35.000 già si va a una retta che può arrivare a 400-500 euro al mese. Appendino, prego, il tema se ancora sul tema dei costi. Non ce l'abbiamo, no, non c'è ancora? Ragazzi, è così. Evidentemente, pur avendo una linea fissa, non ne usciamo, Maria, qua a Radio 24, anche avendo una linea fissa. Io sono confidente che tra poco tornerà. Sì, perché cioè, era collegata, mi sembrava da una linea fissa. Allora, andiamo qua con qualche ascoltatore. Sì. No, l'anno scorso mi scrive un ascoltatore: la nostra scuola materna paritaria ha organizzato il campus estivo a 80 euro a settimana, quest'anno a 140, e alla fine non l'hanno fatto per mancanza di adesione. Dice: mi domando a settembre che cosa succederà. Un'altra ascoltatrice che ci ha scritto nei giorni scorsi ha detto: vabbè ragazzi, allora io ho usufruito del congedo, quello da nuova legge, abbiamo utilizzato anche il bonus babysitter, a questo punto io di fatto non ho diritto alle agevolazioni che mi servono appunto per poter accedere a un centro estivo. Saluto Rossella Nocenti, intanto, che è presidente, sì, di Unitamente, l'associazione nidi, scuole, infanzia, servizi tra gli 0 e i 6 anni. Nocenti, buongiorno, benvenuta in ore piuttosto intense per voi anche in termini organizzativi. I costi stanno crescendo così tanto? Sì, buongiorno a tutti. Sì, i costi sono triplicati, si potrebbe dire triplicati, perché merito ai centri estivi sono state emanate delle linee guida attraverso la conferenza delle regioni che ci hanno imposto dei rapporti numerici adulto-bambino molto restrittivi e tutta una serie di aggiunte di PI piuttosto che di pratiche di cose da fare che certamente vanno sul bilancio, ma in realtà il costo maggiore è il fatto che dobbiamo triplicare il personale per tenere questi rapporti numerici, e ad oggi noi strutture private siamo chiuse, siamo l'unico codice Ateco che è dal 24 di febbraio che è fermo, ancora non ha potuto riaprire, ripartire, e senza riscuotere quelle che sono le nostre rette che permettono alle nostre strutture di restare aperti, di conseguenza dover affrontare un'apertura in centro estivo triplicando i costi diventa impossibile. Intanto ricordo agli ascoltatori l'800 24 00 24 se vogliono intervenire in diretta, che ci possono scrivere al 349 238 6666. Un'ascoltatrice tra l'altro ci dice: se volete posso intervenire per raccontarvi come si riapre un asilo, perché noi abbiamo riaperto. Beh, lo faccio, c'è il numero verde, ascoltiamo volentieri. Senta, Nocenti, volevo capire questo. Buongiorno, sono Maria Latella. Dovete cercare più personale, siccome è anche una questione piuttosto delicata in che mani mettiamo i nostri bambini piccolissimi. Questa selezione fatta così anche di corsa, come ve la state cavando? È molto complessa la materia, perché sono stati, diciamo, svincolati i centri estivi nella formula del centro estivo, quando noi in realtà siamo dei servizi socioeducativi che danno senz'altro una qualità differente come servizio, quindi molte famiglie delle nostre ovviamente si sono anche chieste: ma chi verrà messo, chi andrà ad aggiungersi, perché si fa presto a parlare di volontari eccetera, però insomma diciamo che non è così facile anche reperire del personale aggiuntivo, tanto personale aggiuntivo con le qualità giuste per quella che è la qualità dei nostri servizi socioeducativi. Qual è il curriculum richiesto? Ma guardi, in realtà il centro estivo, per come può essere concepito, pur di mantenere quelle che sono le linee guida date, di poter presentare tutti i progetti che vengono richiesti, le varie SCIA eccetera, in teoria potrebbe tentare di farlo un po' chiunque, pur mantenendo tutte le regole che vengono imposte logicamente. Quindi mi perdoni, non è richiesto un diploma magistrale, non è richiesta una competenza pedagogica, no? Le faccio come esempio: ci sono delle attività che aprono i centri estivi solo nei centri estivi, nei mesi estivi, e magari non fanno solo quello durante l'anno. Noi siamo servizi socioeducativi differenti, sì. E nei servizi socioeducativi servono le qualifiche e i diplomi, le lauree. Nocenti, secondo lei quanti non riapriranno a settembre dei servizi? Mi riferisco in particolare ai nidi, c'è un grosso rischio su questo fronte, mi sembra di capire. C'è un grandissimo rischio, noi siamo un'associazione nazionale, siamo nati durante questo periodo di emergenza e stiamo in espansione. Per quanto riguarda la nostra associazione abbiamo fatto un'indagine e abbiamo dei colleghi che sono coraggiosissimi e stanno tentando di riaprire e hanno anche tutto il nostro appoggio, però la maggior parte di noi non vuole aprire. Questa cosa noi la stiamo segnalando in tutte le commissioni, in tutti i team infanzia a cui partecipiamo, e quindi questo cosa porterà? Porterà non solo a un disservizio legato ai centri estivi, ma al fatto che molti di noi non sopravviveranno alla parte estiva e non arriveranno a riaprire a settembre. A settembre, è un tema enorme. Isabella dalla provincia di Ferrara, che tra l'altro è un'amministratrice locale, un vice sindaco, no? Buongiorno. Buongiorno a voi e buon lavoro. Sì, io mi sono permessa di chiamare perché il plauso in questo caso va a un'associazione di volontariato del nostro territorio, sì. Che si chiama Monsignor Crepaldi e che da sempre gestisce una materna privata convenzionata, accreditata con il comune. Sì. E che quest'anno però ha confermato i centri estivi. Isabella, però ci dice i numeri un po' sia. Allora, noi di solito i numeri sono più importanti. Allora, Voghera fa meno di 4.000 abitanti. Sì. Di solito i bambini del centro estivo sono un'ottantina. Quest'anno con le misure di sicurezza non si riesce ad andare oltre i 15. E quindi sarà è stato fatto un lavoro di con le famiglie e, di i prezzi? E i prezzi? E i prezzi sono 80 euro alla settimana. Credo che con i prezzi ma che abbiamo qui sentito qui si conferma, anche vice sindaco, e lo dico anche problemone a Rossella Nocenti, la differenza tra, ancora una volta, tra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud. Nota tecnica, perché, Maria, sì, non tecnica, aspetta, politica. Non mi interrompere, no, stavo per dirti che è tornata Perfetto. Chiara Appendino. Allora, fammi finire, per favore, prego. Perché tutte le volte, se no ti devo invitare alla trasmissione sulle donne interrotte dagli uomini che abbiamo appena fatto. Era solo fatto per su segnalarti perfetta che è tornata Chiara Appendino. Comunque, sei invitato, Simone, settimana prossima, torniamo su questo tema. Mi stai accusando di mansplaining? No. Ebbene sì. Ci sono due donne ospiti e sei 3-1, ti mettiamo nell'angolo. Bentornata Chiara Appendino, e la rivolgo anche a lei la stessa domanda, sindaco. Ancora una volta la differenza tra nord e sud è evidente. La vice sindaco di Voghera ci stava dando una notizia confortante, mentre il bacino al sud è bassissimo, soltanto il 12,3% dei bambini può utilizzare i nidi e i servizi integrativi. Lo so che lei è il sindaco di Torino, Appendino, però è una situazione complicata. Ovviamente parlo, come dire, da sindaco, ma anche da persona che appartiene, fa parte del paese, quindi è evidente che questi dati devono far riflettere anche nell'ottica delle scelte politiche che verranno fatte per la ripartenza. Lo dico da, come dire, sindaca di una città del nord, non possiamo pensare di avere solo una parte del paese che garantisce servizi, che garantisce le fragilità. Volevo solo tornare sul tema che avevate chiesto, che è saltata la linea dei costi, che credo vi interessasse anche perché stavate dicendo anche adesso proprio con la vice sindaca, credo fosse. A Torino, per quanto riguarda i centri estivi, quindi come dicevo non abbiamo aumentato i prezzi, si parla di un massimo di 143 euro per due settimane. E ovviamente il massimo è 143, ma dipende dalla fascia ISEE, quindi in base al proprio reddito, e si arriva a un minimo di 37 euro, quindi per due settimane 37 euro. Per quanto riguarda invece l'estate ragazzi, passiamo da 46 euro per le famiglie in difficoltà economiche a 180 euro sempre per due settimane, quindi siamo comunque riusciti, ma come pubblico evidentemente, a garantire che sia accessibile come abbiamo fatto anche negli anni scorsi. Maria, io sto zitto adesso. Uno a uno. Tocca a te. No, vai. Vai, davvero, andiamo in chiusura con la tua domanda per l'Appendino. Vai. Allora, abbiamo parlato di costi e di asili nido. Le chiedo però una cosa che con gli asili nido non c'entra, ma col suo Movimento 5 Stelle sì. Siete stati coinvolti da questi stati generali del Premier Conte? E che ne sembra? Che cosa ne pensa? Era opportuno in questo momento fare una cosa così, un evento molto solenne, con inviti, sia pure in streaming, a Ursula von der Leyen, eccetera, era quello che serviva? Allora, guardi, come sindaci non siamo ancora stati coinvolti. Personalmente non sono stata coinvolta, ma non credo che sia una questione che appartenga a una forza politica. Credo che il Presidente del Consiglio voglia costruire un percorso per lavorare sulla ripresa. Io penso che nei momenti difficili come quello in cui stiamo vivendo, quindi dove oggettivamente c'è un'emergenza sanitaria che è diventata economica, sociale, psicologica, e anche dai dati che vediamo purtroppo di previsioni rispetto al PIL non saranno mesi semplici, si debba cercare il più possibile di includere, quindi per rappresentare in qualche modo, includere le varie legittime istanze che nascono dal paese, anche che possono essere contrapposte. Quindi io penso che l'intento del Presidente sia questo, cioè costruire un percorso che non sia di appartenenza di una singola persona ma di un paese, e provare a rilanciare questo paese, perché oggettivamente ne abbiamo molto bisogno, perché se l'economia non parte, oggi parliamo di asili nidi, è corretto farlo, però ricordiamoci che gli asili nidi sono una parte, o comunque sono parte del sistema di welfare, che se non riparte l'economia farà molta fatica a sostenersi, già lo sta facendo oggi. Grazie Chiara Appendino, sindaca di Torino. Adesso dobbiamo chiudere, posso? Sì, dobbiamo chiudere, ok, grazie ciao a Maria tutti. Natella, ci risentiamo domani alle 8:20 e con tutti gli altri ascoltatori alle 6:30, ciao.